A un tratto, Saint Loup apparve in compagnia della sua amante e in quella donna che era per lui tutto l'amore, tutte le possibili dolcezze della vita, la cui personalità, misteriosamente racchiusa in un corpo come in un tabernacolo, era poi l'oggetto sul quale la fantasia del mio amico lavorava senza posa, sentendo che non ne avrebbe mai raggiunto la conoscenza, in quella donna che egli incessantemente si chiedeva chi fosse davvero dietro il velo degli sguardi e della carne, io riconobbi all'istante Rachel Candusignore, colei che solo pochi anni prima, così rapidamente le donne cambiano condizione in quel mondo quando la cambiano, diceva alla tenutaria: «Allora, domani sera, se avete bisogno di me per qualcuno, mandatemi a chiamare». E quando, in effetti, andavano a chiamarla e si trovava sola in camera con quel qualcuno, sapeva così bene quel che si voleva da lei che, dopo aver chiuso la porta a chiave, per precauzione di donna prudente o per gesto rituale, cominciava col togliersi prontamente tutto ciò che aveva indosso, come si fa davanti al dottore che deve auscultarci, e si fermava per strada soltanto se il qualcuno, poco amante della nudità, le diceva di tenere la sottoveste, come fanno certi medici che, avendo un orecchio particolarmente fine e temendo di far prendere freddo al malato, si limitano ad ascoltarne la respirazione e il battito cardiaco attraverso la biancheria. Su quella donna, la cui vita, i cui pensieri, il cui passato, compresi tutti gli uomini che potevano averla posseduta, mi erano così totalmente indifferenti che, se avesse voluto raccontarmeli, non l'avrei ascoltata che per pura cortesia e con un orecchio solo. Su quella donna l'inquietudine, il tormento, l'amore di Saint Loup si erano accaniti sino a fare di ciò che era per me un giocattolo meccanico un oggetto di sofferenze infinite e di valore pari a quello della stessa esistenza. Vedendo i due elementi dissociati, giacché avevo conosciuto Rachel Candusignore in una casa d'appuntamenti, capivo che molte donne per le quali degli uomini vivono, soffrono, si uccidono, possono essere, in sé o per altri, quello che Rachel era per me. L'idea che si potesse provare una curiosità dolorosa per la sua vita mi lasciava stupefatto. Avrei potuto riferire a Robert un bel po' delle sue avventure di letto, che a me sembravano la cosa meno interessante del mondo. E quanto dolore gli avrebbero inflitto, e cosa non aveva dato per conoscerle senza peraltro riuscirvi. Consideravo tutto quel che riesce a mettere l'immaginazione umana dietro un pezzetto di faccia, come nel caso di quella donna, quando a farne per prima la conoscenza sia stata appunto l'immaginazione, e inversamente in quali miserabili elementi materiali, spogli di ogni valore, poteva decomporsi l'oggetto di tante fantasie se al contrario esso era stato percepito in modo affatto diverso attraverso la conoscenza più triviale. Comprendevo come qualcosa che mi era parso non valere nemmeno 20 franchi quando mi era stato offerto per 20 franchi in una casa d'appuntamenti dove ai miei occhi era semplicemente una donna desiderosa di guadagnare 20 franchi, potesse valere più di un milione, più delle carriere più invidiate, più persino degli affetti familiari, qualora si fosse cominciato con l'immaginare in lei un essere misterioso, interessante da conoscere, difficile da afferrare e da tenere. Certo, ciò che Robert e io vedevamo era lo stesso volto sottile, affilato, ma c'eravamo arrivati per due strade opposte che non si sarebbero mai congiunte e dalle quali non avremmo mai potuto scorgere la stessa faccia. Quel viso, con i suoi sguardi, i suoi sorrisi, i movimenti della sua bocca, io l'avevo conosciuto dal di fuori come quello di una donna qualsiasi disposta per 20 franchi a fare tutto ciò che volessi. Così quegli sguardi, quei sorrisi, i movimenti di quella bocca Mi era parso che esprimessero soltanto azioni generali, che non avessero niente di individuale, né mi sarebbe mai venuta la curiosità di cercare, sotto la loro superficie, una persona. Ma ciò che a me, in qualche modo, era stato offerto in partenza, quel viso consenziente, per Robert, era stato un punto d'arrivo, verso il quale si era mosso attraverso una quantità di speranze, di dubbi, di sospetti e di sogni. Sì, egli aveva speso più di 1 milione per avere, perché non fossero altri ad avere, ciò che a me, come a tutti, era stato offerto per 20 franchi. Che non l'avesse avuto anche lui allo stesso prezzo, poteva dipendere dal caso di un istante durante il quale colei che sembrava pronta a concedersi si sottrae, forse perché ha un appuntamento, una ragione qualsiasi che quel giorno la rende più difficile. Se l'uomo è un sentimentale, persino quando lei non se ne accorge, ma soprattutto quando se ne accorge, comincia un gioco terribile. Incapace di superare la propria delusione, di fare a meno di quella donna, lui la importuna, lei gli sfugge, col risultato che un sorriso, in cui lo sventurato non osava più sperare, viene pagato 1000 volte il costo che avrebbero dovuto avere i più completi favori. E in quel caso può anche succedere, quando, per un miscuglio di ingenuità nel giudizio e di viltà davanti alla sofferenza, si sia commessa la follia di fare di una puttana un idolo inaccessibile, che quei più completi favori, o addirittura un solo bacio, non li si ottenga mai più, che non si abbia più nemmeno il coraggio di chiederli per non smentire qualche assicurazione d'amore platonico. Ed è una grande sofferenza, allora, separarsi dalla vita senza sapere cosa potesse essere il bacio della donna che più di ogni altra si è amata. I favori di Rachel, tuttavia, Saint-Loup era riuscito, per fortuna, ad averli, e sino in fondo. Certo, se gli avessero rivelato ora che essi erano stati proposti a tutti per un Luigi, ne avrebbe atrocemente sofferto, ma non per questo avrebbe esitato a dare, per conservarli, quello stesso 1 milione, giacché qualsiasi cosa fosse venuto a sapere non avrebbe potuto farlo deviare. Ciò che al di sopra delle forze dell'uomo può realizzarsi soltanto suo malgrado, sotto l'azione di qualche grande legge naturale, non avrebbe potuto farlo deviare dalla strada che aveva imboccata e dalla quale il viso di lei non poteva apparirgli che attraverso i suoi sogni. L'immobilità di quel viso sottile, simile a quella d'un foglio di carta sottoposto alle colossali pressioni di 2 atmosfere, mi sembrava tenuta in equilibrio da 2 infiniti che la lambivano senza incontrarsi, giacché era lei a separarli. La guardavamo entrambi, Robert ed io, senza vederla dallo stesso versante del mistero. Non era tanto Rachel Candiseigneur a sembrarmi poca cosa, quanto la potenza dell'immaginazione umana, l'illusione su cui si fondano le sofferenze amorose ad apparirmi smisurate. Robert s'avvide della mia emozione. Distolsi lo sguardo verso i peri e i ciliegi del giardino di fronte perché pensasse che a turbarmi fosse la loro bellezza. E in effetti essa mi turbava un po' nello stesso modo, mi metteva analogamente a contatto con qualcosa che non si vede con gli occhi ma si sente nel cuore. Quegli arbusti che avevo visti nel giardino, scambiandoli per degli dei stranieri, non mi ero forse ingannato come Maddalena quando in un altro giardino, in un giorno di cui si stava avvicinando l'anniversario, vide una forma umana e credette che fosse il giardiniere? Custodi delle memorie dell'età dell'oro, garanti della promessa che la realtà non è ciò che si crede, che lo splendore della poesia, il meraviglioso fulgore dell'innocenza possono risplendervi e potranno essere la ricompensa cui tenderemo con i nostri sforzi, le grandi creature bianche, meravigliosamente protese al di sopra dell'ombra propizia alla siesta, alla pesca, alla lettura, non erano piuttosto degli angeli? Scambiai qualche parola con l'amante di Saint Loup. Attraversammo il villaggio. Le case erano sordide, ma anche a fianco delle più miserabili, di quelle che sembravano arse da una pioggia di salnitro, un viaggiatore misterioso, fermatosi per un giorno nella città maledetta, un angelo risplendente, stava fermo, in piedi, e stendeva su quei muri la vasta, abbagliante protezione delle sue ali d'innocenza. Era un pero fiorito. Saint Loup mi prese da parte per un attimo. «Mi sarebbe piaciuto che potessimo aspettare insieme, tu e io. Sarei stato addirittura più contento di fare colazione da solo con te e che restassimo soli fino al momento di andare a casa di mia zia. Ma la mia ragazza, poverina, fa talmente piacere. E poi è così cara con me che non ho potuto negarglielo. Del resto ti piacerà, vedrai. È tutta letteratura, tutta vibrazioni. E andare con lei al ristorante è una delizia. Ah, è così gradevole, è così semplice, sempre contenta ad ogni cosa. Penso, tuttavia, che proprio quel mattino, e probabilmente per la prima e ultima volta, Robert si è evaso per un istante dalla donna che, tenerezza dopo tenerezza, si era lentamente costruita e abbia visto di colpo davanti a sé un'altra Rachel, un doppio della sua amante, ma assolutamente diverso e raffigurante una semplice puttanella.